E nonostante abbia perso del tempo, nonostante sia già troppo vecchio, nonostante io viva correndo, chi di che prendo, fumo il mio pesto e inculo tutto il resto. Non è pensare che ti rende un uomo libero, libero di non pensare, soprattutto in faccia al bivio. Non è il ricordo che ti rende meno effimero, libero dal ricordo, poi vediamo qui chi è un genius. E non lasciatemi da solo per favore, mani man, poi me ne accorgo che da solo faccio il doppio, che sei tu che vuoi il malloppo, che il discorso ha troppe crepe, che alla fine ci credete, ma poi in fondo neanche troppo. Sono perso in un mare di merda, è la mia coperta. Tanto a te non penso, osserva, tanto se scrivo sulla carta pesta, così tanto da piegare la tua carta crespa, ed è la luce del mattino a ricordarlo, che ogni giorno ricomincia, sarai solo tu a cambiarlo. Ed è la luce della sera a rimarcarlo, non voler fermare il tempo, rischi di riuscire a farlo. Ed è la luce del mattino a ricordarlo, che ogni giorno ricomincia, sarai solo tu a cambiarlo. Ed è la luce della sera a rimarcarlo, non voler fermare il tempo, rischi di riuscire a farlo. È solo l'arte a poter fermare il tempo, incorniciando sul mio muro in un momento della storia. La pazienza resta poca, ma la mente mi si svuota, mentre il dito preme sopra il tasto della prima nota. Sono un local, non devi a forza dirlo, dico in giro che son morto. Tutti provano a volare, fate solo goffi salti dal recinto. Non sembrate degli MC, mi sembrate del pollame. E non vi rubo certo il pane, io faccio il panettiere, t'assicuro certe sere non vorrei. Tu resta solo come un cane, zio, fallo per l'hip hop, poi vedi un po' se ti fai ancora i cazzi miei. Basta, hai mai visto un ghetto blasta? No, solo una volta su Google cercavi cose da rapper per spalla. Fai il b-boy che bravo balla, ma sei come Babbo Natale che si picchia con ta tanca e qua. È la luce del mattino a ricordarlo, che ogni giorno ricomincia, sarai solo tu a cambiarlo. Ed è la luce della sera a rimarcarlo, non voler fermare il tempo, rischi di riuscire a farlo. Ed è la luce del mattino a ricordarlo, che ogni giorno ricomincia, sarai solo tu a cambiarlo. Ed è la luce della sera a rimarcarlo, non voler fermare il tempo, rischi di riuscire a farlo.